La nuova legge elettorale, come noto, la nuova legge elettorale ha tolto ai cittadini il disturbo di dover esprimere un voto di preferenza e ha lasciato alle segreterie dei partiti l'onere di decidere con criteri propri chi dovrà, dopo tutto, rappresentare noi in Parlamento. È una bella puttanata a prima vista, ma poteva avere i suoi vantaggi. Io, per esempio, mi ero illuso che comportasse, se non altro, la sparizione dai muri delle città dei manifesti con l'effigie dei candidati minori. Perché mi facevano tristezza quelle facce speranzose, tutti quei giovanotti in divisa da yuppie in carriera, con i capelli appena tagliati e il nodo della cravatta ben fatto che neanche il giorno della cresima, tutte quelle signore sorridenti che, riciclando foto vecchie di almeno due lustri, cercavano di esibire un improbabile look da divetta degli anni 60, mi facevano pena. Erano così palesemente inadeguati agli incarichi cui ambivano, così evidentemente destinati al macello nella contesa partitica in cui si erano imbarcati, che un'anima appena sensibile non poteva impedirsi di provare nei loro confronti una sorta di gentile pietà, e si capiva benissimo che nessuno li avrebbe letti, poveri diavoli, e che senza altra prospettiva che quella di un'amara delusione gli toccava profondere in fotocolor, carta, colla e spese d'affissione varie un capitale di cui avrebbero senza dubbio potuto far uso migliore. Ahimè, non avevo tenuto conto del fatto che a Milano, oltre le elezioni politiche, ci toccano un mese dopo quelle municipali. E le elezioni municipali si svolgono inesorabilmente con la vecchia legge e prevedono le preferenze. Per cui già in questi ultimi giorni di febbraio, con 4 mesi d'anticipo, i cantoni e i pali della luce fioriscono di facce di slogan, e gli uni più banali delle altre. La fiducia nella volata lunga evidentemente è dura a morire, anche se i risultati di solito premiano gli specialisti del surplus, e la convinzione che basti esibire le proprie fattezze per convincere l'elettore più riottoso deve far scattare qualche pulsione profonda nella psiche di questo tipo di aspiranti alle cariche pubbliche, e di fatto sono di nuovo tutti lì in effigie ad assicurarci che la sicurezza non è un'opinione, che il bene dei nostri anziani è la loro cura più cara e che quanto impegno e volontà di fare, dobbiamo credergli, non sono assolutamente secondi a nessuno. È uno spettacolo, ne converrete, assai triste, ma forse che quest'anno qualcosa ce lo rende un po' meno deprimente di prima. In fondo, anche se appartengono quasi tutti a partiti tra i più deprecabili, questi cirenei della politica un merito almeno ce l'hanno. E dovendo essere eletti si rivolgono agli elettori. Non avranno dei grandi argomenti da far valere, ma almeno ci provano. E tutto sommato sono più simpatici, ne converrete, degli altri, di quelli che sono sicuri di essere eletti, perché a tal fine si sono prestati, in veste non si capisce se di soggetti o di oggetti, a quella specie di mercato delle vacche con cui negli ultimi giorni si sono definiti i collegi sicuri, i posti blindati, le candidature paracadutate, le teste di serie, i diritti di tribuna, il posto sicuro, insomma, per la gente più strana. Nella serena convinzione che, non essendo data all'elettorato altra prospettiva che quella di prendere o di lasciare, si può ragionevolmente presumere che la fin della fiera prenderà. Che non è esattamente il modo di manifestare rispetto per il cittadino elettore, ma tanto diciamolo pure, chi è che bada più a queste cose? Io che ci bado, vi assicuro che le trattative riservate, con tutto il loro contorno di lobbying, minacce, ricatti, pressione, chi più ne ha più ne metta, preferisco ancora le facce sul muro.